soffrire nella tua memoria. Ed è la tua memoria di me a pagarmi, forse, un ultimo giorno, da uno sguardo nascosto.